Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se avete voglia, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di sentirvi raccontare la giornata comodamente seduti in macchina oppure a casa, oppure state facendo qualsiasi cosa, state camminando, state stirando, cucinando, parlando con qualcun altro, eccetera, questo è il posto giusto, avete scelto al momento giusto, come sempre, dal lunedì al venerdì, per fare un riepilogo chiaro della giornata e poi con degli ospiti in diretta per affrontare alcuni degli argomenti. L'argomento oggi, uno di quelli dominanti almeno, che ha avuto un riverbero anche oggi, è stato il gesto dell'ombrello, che non è dovuto al maltempo che ha colpito soprattutto la Toscana, e poi c'è sempre di mezzo Letta tirato a destra, tirato a sinistra sulla legge di stabilità, che evidentemente continua a scontentare proprio adesso che sta iniziando il suo iter parlamentare, quindi chissà quante modifiche, quanti tentativi di modificarla con Letta, che dice la criticano per durezza e per morbidezza, insomma, dai lati opposti. Ma cominciamo allora con i titoli dei fatti principali. Quindi la legge di stabilità, come dicevo, sotto assedio, i sindacati che annunciano 4 ore di sciopero, e per la Confindustria è una legge che dimostra poco coraggio. Nel frattempo arriva anche la nuova bozza di conclusioni del vertice dell'Unione Europea di giovedì e di venerdì, in cui emerge la volontà della cancelliera tedesca Merkel di rendere più rigido il controllo europeo sugli stati di Eurolandia. Il documento, questa bozza, parla di aumentare il livello di impegni e applicazione delle riforme economiche e dà alla Commissione più poteri di controllo. E poi Agrigento, che ha ricordato le vittime del naufragio vicino Lampedusa del 3 ottobre scorso e anche di quello di una settimana dopo. Durante la commemorazione il vicepresidente del Consiglio Alfano viene contestato e quindi portato via dalla sicurezza. Maltempo che ha colpito soprattutto la Toscana con frane e temporali e infiltrazioni anche nella Biblioteca Nazionale. E scoppia il caso Maradona. Non volevo offendere, dice lui con quel gesto di cui parleremo, e da Equitalia rispondono: assurdo davvero quel gesto. Cominciamo quindi a dispiegare queste notizie partendo per l'appunto dalla legge di stabilità, dalla manovra messa a punto dall'esecutivo alla vigilia, vi dicevo, di questo iter parlamentare che dovrà affrontare, con le critiche che le piovono addosso da più parti, dalla stessa maggioranza e dalle parti sociali, con i sindacati che hanno annunciato 4 ore di sciopero per novembre. Non si preannuncia facile il percorso parlamentare della legge di stabilità, il fuoco incrociato di sindacati e di imprenditori da una parte, le tante critiche dalla stessa maggioranza dall'altra, creano infatti non poco fastidio all'esecutivo nella settimana della presentazione all'Europa della finanziaria. Il testo potrà essere modificato tra Camera e Senato, ha sempre ricordato il Presidente del Consiglio Letta, ma certo a Palazzo Chigi non si aspettavano una tale accoglienza. C'è a questo punto il rischio, fanno notare fonti della Presidenza, che la legge di stabilità venga stravolta. Di qui il messaggio di Letta: per poter realizzare degli obiettivi è necessario saper dire anche dei no. Per non sapere dire dei no a un ministero si finisce per mettere tutti a bordo e si è creata la condizione migliore perché non si faccia assolutamente niente. Sulla linea di Letta, Epifani, che spiega, bisogna evitare la somma delle richieste e l'inconcludenza dei risultati e scegliere le cose che fanno bene al paese. Sempre dal Partito Democratico, il viceministro all'economia Fassina giudica un errore lo sciopero dei sindacati e ricorda come le tasse siano un'emergenza nazionale. È un'emergenza nazionale la riduzione delle tasse, bisogna farlo colpendo le cause vere. Brunetta, Popolo della Libertà, si dice preoccupato per un testo che in larga parte è ancora da scoprire, poi spiega serve subito una cabina di regia di maggioranza per controllare e per cambiare il provvedimento. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per ora niente sciopero generale contro la legge di stabilità. CGIL, CISL e UIL annunciano comunque mobilitazioni unitarie con scioperi di 4 ore e manifestazioni gestite a livello territoriale da qui a metà novembre. La richiesta al governo è quella di fare di più per ridurre le tasse a lavoratori e pensionati. Per i sindacati le risorse vanno trovate tagliando gli sprechi nella spesa pubblica e tassando le rendite finanziarie, la numero uno della CGIL, Camusso. Bisogna avere il coraggio di spostare i pesi, spostare da chi ha avuto in tutto questo periodo verso chi invece ha continuato a pagare il prezzo. Una scelta politica, non è un tema di assenza di risorse. A chiedere più coraggio sul taglio del cuneo fiscale è anche il presidente di Confindustria Squinzi, preoccupato per il passaggio della manovra in Parlamento. Ho espresso il mio timore mio forte timore che nella fase di passaggio attraverso la conversione da decreto legge a legge in Parlamento saltino fuori le solite porcate, porcherie del passato, di cui purtroppo nel nostro paese abbiamo una lunga esperienza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso parliamo invece della commemorazione che c'è stata ad Agrigento delle vittime del naufragio terribile, vi ricordate, dello scorso 3 ottobre e di quello di una settimana dopo. Bene, questo pomeriggio Agrigento si è fermata per ricordare i due naufragi di Lampedusa. Decine di parenti e amici dei migranti morti nei naufragi del 3 e 11 ottobre a Lampedusa hanno intonato canti, portato fiori e candele e anche protestato davanti al molo turistico di San Leone ad Agrigento, dove si è svolta la cerimonia per le 366 vittime accertate. Erano presenti i ministri dell'integrazione Chienghe, della difesa Mauro e dell'interno Alfano. Quest'ultimo è stato pesantemente contestato con urla e minacce da alcuni eritrei e attivisti. Altre polemiche hanno invece riguardato il luogo dei funerali Agrigento e le modalità delle esequie avvenute senza le bare già partite per i paesi di origine, mentre il premier Letta aveva annunciato i funerali di Stato. Il sindaco di Lampedusa, Giuse Nicolini, non ha partecipato dopo il rifiuto della sua richiesta di poter organizzare sull'isola i funerali. A Lampedusa invece alcuni superstiti hanno ricordato le vittime davanti agli scogli del naufragio. E dal Consiglio europeo sugli affari esteri, il ministro degli esteri, Emma Bonino, è intervenuta sulla questione immigrazione. Guardo le cifre e non do i numeri. Abbiamo avuto più o meno 31.000 sbarcati. Il problema politico mi è chiaro che sia un problema quantitativo un po' meno, sono molto spesso di passaggio. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sul tema dell'immigrazione è intervenuto poi nel tardo pomeriggio anche il Presidente del Consiglio Letta, che ha detto: al prossimo Consiglio europeo saremo fermi e netti e non accetteremo un consiglio superficiale. Chi ha responsabilità istituzionali, dice, deve soprattutto dare risposte, per questo ci siamo incontrati e abbiamo deciso iniziative. Questo ha detto Letta dopo l'incontro col primo ministro greco Samaras. E a proposito di contestazioni, ci sono stati dei momenti di tensione in serata all'Università della Calabria durante la visita nell'ateneo della ministra dell'istruzione Maria Chiara Carrozza. Alcuni studenti hanno lanciato pietre e uova contro l'auto della ministra e altre vetture del corteo. È stata chiesta, in mezzo alle urla, allo slogan, anche la liberazione dei giovani arrestati a Roma sabato scorso. E passiamo al maltempo, che oggi ha messo in ginocchio soprattutto la Toscana. Piogge torrenziali ci sono state, che hanno investito Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, e l'allerta meteo dovrebbe durare fino domani alle 12. Poi chiameremo e sentiremo meglio dal capo della protezione civile della Toscana. Invece, per quanto riguarda l'estero, c'è questo vero e proprio caso diplomatico tra Francia e Stati Uniti, con al centro di nuovo il Datagate, quello delle milioni di intercettazioni, no, di telefonate, di dati degli americani. Bene, ha toccato anche i francesi, con milioni di telefonate francesi intercettate sempre dagli americani. Parigi ha chiesto all'ambasciatore americano di dare garanzie sullo stop alle pratiche di spionaggio degli Stati Uniti sulle comunicazioni francesi. Vedremo come proseguirà poi questa storia. Invece in Russia ancora non è definitivo il bilancio dell'attentato avvenuto oggi a Volgograd, dove un bus è saltato in aria e sarebbe stata identificata la presunta attentatrice, una kamikaze che si chiama Naida Afialova, 30 anni, originaria del Dagestan, che poi si è fatta esplodere appena salita sul bus. E tornando invece sulle questioni italiane, sta facendo molto discutere il caso di questa ragazza sedicenne violentata a Modena da 5 coetanei durante una festa in casa di alcuni compagni di scuola. I 5 presunti responsabili, di cui 4 diciottenni e un minorenne, sono stati denunciati a piede libero, nel senso che continuano a fare tranquillamente la loro vita. Intanto Telefono Azzurro fa sapere che stanno aumentando le violenze sessuali subite e commesse da adolescenti, come spiega Barbara Forresi, intervistata da Simone Spezia. Assolutamente sì, sia per quanto riguarda i dati relativi agli abusi sessuali arrivati al servizio di emergenza gestito dal Telefono Azzurro, che è il 114, che ci mostrano non soltanto un aumento nel numero delle vittime, ma anche un aumento nel numero di adolescenti autori di abusi sessuali, che passa dal 6,4% del 2008 al 14% nel 2012, quindi parliamo quasi di dati che raddoppiano. Quello che però vorrei dire è che questo caso si colloca all'interno di un contesto ampio di violenza che è diversificata e che copre diversi ambiti, per cui non sono soltanto gli abusi sessuali, ma c'è una violenza che per esempio avviene all'interno dei contesti scolastici, c'è una violenza che avviene in internet, si parla sempre più spesso di cyberbullismo. E prima di restare sulla cronaca, c'è una notizia uscita proprio adesso, battuta dalle agenzie, di il Presidente del Consiglio Letta, che è a 8:30 sulla 7, dice lo sciopero, quello cioè annunciato dai sindacati per novembre, dice dai sindacati scelta precipitosa, quindi si vedrà se il governo riuscirà a scongiurare questa decisione. Vi dicevo la cronaca, indagato per omicidio colposo lo studente milanese di 28 anni al volante dell'automobile che domenica sera a Milano ha travolto e ucciso una donna egiziana di 29 anni, incinta al settimo mese, e il suo bimbo di 4 anni. La donna stava attraversando Viale Famagosta con il figlio, ma non si trovava sulle strisce pedonali. Il giovane non è risultato negativo ai controlli relativi all'assunzione di alcol e droga. E arriviamo così al caso Maradona. All'indomani della partecipazione del campione argentino, che tempo che fa, è scoppiato, come sapete, il caso. L'ex calciatore ha fatto il gesto dell'ombrello all'indirizzo di Equitalia e questa mattina dura presa di posizione c'è stata dal vice ministro Stefano Fassina, ospite di Mix24. È un gesto da miserabile e credo che vada perseguito con grande determinazione. Stiamo parlando di quasi 40 milioni di euro e Maradona farebbe bene a imparare a rispettare le leggi. Ma come era prevedibile, naturalmente la polemica è proseguita anche nel pomeriggio, perché Maradona ha fatto sapere che con quel gesto non voleva offendere, era un gesto satirico, e a stretto giro fonti di Equitalia hanno fatto sapere che è assurdo che si possa consentire a Maradona di fare il gesto dell'ombrello in una TV pubblica pagata, dice Equitalia, Italia, da tutti quei contribuenti che non evadono il fisco pagando il canone Rai. In ogni caso, tra poco, sappiatelo, in diretta ci sarà qui Effetto Note l'avvocato di Diego Armando Maradona. Sentiamo un po' quale sarà la sua versione. E restiamo sul calcio, naturalmente sul calcio giocato. Vigilia di Champions League oggi per le italiane. Il Napoli vola a Marsiglia col dubbio di Higuain, ma c'è anche il Milan e la Juventus che arrivano con qualche grattacapo alla sfida con le big spagnole. Con le lance spuntate camminiamo verso le armate spagnole. Una FIFA blu ci accompagna, motivata, con circostanza. Domani sera il Milan minimalista di questi tempi, che ha battuto l'Udinese con il suo giocatore simbolo di questo trend minimal, lo sloveno Walter Birsa. Le uniche buone notizie sul fronte rossonero sono le possibilità di recuperare Mario Balotelli, che sta forzando i tempi per provare a saltare dal box degli infortunati al campo. Volendo esagerare con l'ottimismo, ci sarebbero anche quei 10 minutini di Kakà sabato sera, niente di pirotecnico, ma qualche schizzo di classe e di carisma, che è sempre meglio del nulla. Ovvio che sia poco, anche se il Barcellona non ha certo sfregato la lampada di Aladino a Osasuna, uscendo con un pallido 0-0. Mercoledì la Juventus andrà a casa di Carlo Ancelotti, il Santiago Bernabeu, pure con un sacco di dubbi e con la maligna compagnia dell'obbligo di fare il risultato, quasi, perché il girone si è complicato. Anche qui ci sono giocatori da recuperare, Vidal nel fisico, Buffon nella mente, dopo i 4 palloni lasciati a passare in modo un po' goffo anche a Firenze. Qualcuno suggerisce una serie di esami al gerontocomio. A noi pare ancora presto, anche se, come dicono i nonni, gli anni passano per tutti. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. Infine parliamo anche di una mostra che si è inaugurata oggi, si è aperta oggi fino al 23 febbraio prossimo. Resterà aperta la grande mostra che la GAM di Torino dedica a Renoir. 60 capolavori, per lo più dal Musée d'Orsay, dal Musée de l'Orangerie. Curatore della mostra è Riccardo Passoni, vice direttore della GAM di Torino, e quindi sentiamo che cosa ha detto al microfono di Adriana Fracchia. La mostra è scandita in una decina di sezioni che riguardano il momento formativo della Bohème, poi si passa all'infezione dell'universo femminile, i grandi ritratti della borghesia illuminata del tempo, si passa alla stagione dei paesaggi straordinaria e via dicendo, fino ai fiori, l'ultima stagione dei grandi nudi. L'altro aspetto importante è quello legato all'apertura cronologica, nel senso che non abbiamo soltanto il Renoir impressionista, abbiamo trovato in tutte le stagioni principali, fino al Renoir ultimo, che rimane appunto un grande ricercatore. Il terzo aspetto fondamentale è che questa mostra consentirà di capire il continuo avanzamento della ricerca e la riflessione stilistica da parte del grande maestro. Torino non è mai stata realizzata la mostra Renoir, la prima in assoluto, quindi a eccezione del nostro Renoir, quello che a partire dalle nostre collezioni, le appunto non si sono mai viste. Una decina sono state presentate, una quindicina negli ultimi 20 anni, in diverse circostanze, ma mai a Torino. Questi sono 60 lavori appunto che praticamente si vedono per la prima volta qui. Ecco Renoir, finisce questa prima parte di Effetto Notte, ma poi continueremo a stare insieme sino alle 22. Siateci, perché tra poco al rientro della viabilità ci sarà appunto il legale di Diego Armando Maradona. E se avete voglia, anzi fatelo, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, per riconoscerla, e potete fare tranquillamente i commenti, esprimere le vostre opinioni man mano sugli interventi, sugli ospiti che ci saranno, sugli argomenti che tratteremo. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, le notizie ve le ricordo a partire dai titoli. In primo piano la legge di stabilità, sotto assedio adesso che inizia il suo iter parlamentare. I sindacati annunciano 4 ore di sciopero, la Confindustria dice che è una legge che dimostra poco coraggio, e Letta dice la legge di stabilità la miglioreremo, ma da stabilità, una specie di tautologia. Nel frattempo arriva la nuova bozza di conclusioni dal vertice europeo di giovedì e venerdì, in cui emerge la volontà della cancelliera tedesca Merkel di rendere più rigido il controllo europeo sugli stati di Eurolandia. Ad Agrigento sono state commemorate le vittime dei 2 naufragi di Lampedusa ed è stato contestato il vicepresidente del Consiglio Alfano, che è stato portato poi via dalla sicurezza. Maltempo, c'è allerta in Toscana fino a domani, frane e temporali hanno colpito la regione, infiltrazioni nella Biblioteca Nazionale. E scoppia il caso Maradona, non volevo offendere, dice lui, da Equitalia rispondono assurdo quel gesto. E vi presento quindi appunto il prossimo ospite, che è Angelo Pisani, avvocato, ben trovato. Sì, buonasera. Angelo Pisani, che è avvocato di Diego Armando Maradona e fondatore del movimento Noi Consumatori, movimento anti-Equitalia, che dice tutto nella sua linea da seguire. No? Rappresentante di tutti i cittadini. Sì, quindi certamente, quindi non solo lei è l'avvocato di Maradona, però con questa associazione, movimento anti-Equitalia, evidentemente vuole rappresentare anche tutti i cittadini che ritengono di essere vittime di Equitalia, evidentemente. Sì, da 10 anni il movimento anti-Equitalia rappresenta tutti i cittadini, quindi da Gennaro Esposito a Diego Armando Maradona. La questione di Diego Armando Maradona è proprio l'evidenza delle violazioni di un sistema nei confronti dei contribuenti, a partire dagli interessi, spese, more che vengono addebitati a tutti i cittadini, e che addirittura nel caso di Maradona vediamo svilupparsi da 6 milioni di euro fino a 39 milioni di euro. Quindi è veramente assurdo che in una democrazia lo Stato possa permettere degli addebiti del genere in danno dei contribuenti. Parliamo, avvocato Pisani, di 40 milioni di euro che Equitalia ha notificato, no, come debito nei confronti dello Stato a Maradona. Ma io non ho capito, tra l'altro, avvocato Pisani, da quello che diceva durante, che tempo che fa, dove è scoppiato appunto il caso del gesto dell'ombrello eccetera, di cui poi parleremo, lì sembrava che Maradona avesse detto che è venuto in Italia apposta per fare chiarezza. Invece pare che fosse venuto perché doveva fare promozione per questo cofanetto che usciva con i suoi video eccetera, ma si è già tornato a Dubai? No, veramente Maradona è venuto in Italia soprattutto per una operazione, diciamo, editoriale che stiamo compiendo, perché ha deciso di scrivere un libro a 4 mani con un giornalista anche di Sky sulla sua storia, quindi sulla verità di questa scandalosa vicenda, perché sua intenzione è portare questo libro in tutti i paesi del mondo, fare la presentazione e raccontare qual è la persecuzione che lui ormai da 25 anni subisce solo perché si chiama Maradona. All'interno del libro ha pubblicato le sentenze dei giudici penali, dei giudici tributari, che dichiarano nulla la violazione fiscale. La violazione fiscale è quel presupposto della cartella esattoriale, quindi se non c'è violazione fiscale non ci dovrebbe essere cartella esattoriale. Invece Equitalia, pur senza nessun giudice che lo abbia mai condannato, perché Maradona non è mai condannato da un giudice, è solo inseguito da Equitalia, questo deve essere chiaro a tutti, continua ad addebitargli questa somma sproporzionata, dove gli si chiedono 6 milioni per capitale e 33 milioni di interessi. Ma per far capire ai telespettatori e agli ascoltatori la questione qual è, nell'89 l'Agenzia delle Entrate fa un accertamento fiscale al signor Ferlaino, Careca, Alemão e Maradona. In quel periodo Maradona era ricoverato a Cuba in gravissime condizioni, più vicino alla morte che alla vita, come tutti quanti sappiamo, sì, quindi non ricevette la notifica per suoi eccessi, per suoi errori sicuramente, non ricevette la notifica dell'accertamento fiscale e non potette impugnarlo. Viceversa per l'Aino, Alemão e Carica, che erano obbligati nella questione fiscale insieme a Maradona, impugnarono questo accertamento fiscale e i giudici stabilirono con sentenza passata in giudicato che l'Agenzia delle Entrate non aveva fornito la prova della supposizione, cioè della violazione che voleva addebitare ai quattro giocatori, al presidente dei tre giocatori. Quindi Ferlaino, Careca, Alemão, lo stesso Coppola, il manager di Maradona, sono tutti quanti liberi oggi di circolare, di lavorare, di prendere il sole, di fare quello che vogliono, e il povero Maradona, solo per non essersi difeso e per non aver impugnato tempestivamente quell'accertamento fiscale di un'ipotesi dichiarata nulla dai giudici, oggi viene perseguitato da una pretesa milionaria che ovviamente nessun cittadino può pagare oggigiorno. Del resto molto spesso dice Maradona inseguito da Equitalia, Maradona viene inseguito da Equitalia sempre per la stessa illegittima pretesa esattoriale. Che non è ma che quindi, avvocato Pisani, a che punto arriviamo? Come si fa per riuscire a concludere questa storia? Se Maradona poi viene, poi ritorna all'estero, poi viene una volta e di nuovo se ne va, come si può arrivare, insomma, a incontrarsi? No, se fossimo in un paese normale, ovviamente qualcuno che ha la responsabilità e l'autorità chiamerebbe a un tavolo Maradona e forse anche l'altra parte, cioè Equitalia e il concessionario, e chiarirebbe che in questo caso non esiste la violazione fiscale, quindi non esiste l'evasione. L'opinione pubblica deve essere ovviamente istruita bene, non può essere influenzata da comunicati stampa rombanti. Pensi che la stranezza, Equitalia notifica un avviso di moro a Maradona, dopo 5 minuti Equitalia fa il comunicato stampa per dire che ha portato la cartella a Maradona, ma Equitalia ha un altro compito in Italia, quello di riscuotere le tasse e quello di far pagare le tasse agli evasori, non quello di fare i comunicati stampa o di farsi pubblicità utilizzando il nome di Maradona. Comunque, Maradona, avvocato Pisani, mi scusi, non è mai stato un evasore fiscale, questo deve essere chiaro a tutti. Però bisogna sì che si arrivi un po' alla conclusione di questa storia. Se lei lancia quindi una specie di appello, Pisani, dicendo qualcuno chiami allo stesso tavolo Maradona e Equitalia e faccia chiarire la posizione di Maradona, quindi Maradona si rende disponibile. Ma noi abbiamo chiesto di chiarire, e sai cosa ci hanno risposto? Alcuni vertici anche di Equitalia, alcuni rappresentanti delle autorità hanno detto: noi sappiamo in cuore nostro che Maradona non è un evasore fiscale, lo sappiamo, ma lui non si è difeso all'epoca, quindi formalmente per noi quel dato ormai è diventata una spada che non può essere tirata indietro, perché da vent'anni ormai queste sono voci, versioni dette così, però no, bisognerà arrivare. Questa è la cosa strana. Noi ovviamente stiamo procedendo giudizialmente, perché c'è un processo tributario ancora in corso, c'è un processo penale proposto da Diego Armando Maradona, ci sarà il libro che ovviamente porterà questa scandalosa vicenda in tutto il mondo e quindi farà capire ai cittadini del mondo qual è la verità, ma soprattutto io per dovere professionale ho dovuto dire a Maradona che c'erano degli sponsor, delle multinazionali, che avrebbero voluto pagare loro la transazione per lui, cioè hanno proposto di pagare non il debito, non 40 milioni penso, no, 40 milioni, cioè, la legge ormai consente, proprio la legge, il salvadebiti, salvacrisi consente di fare una transazione col fisco quando ci sono delle situazioni, diciamo, particolari. Quella di Maradona è molto più particolare, quindi c'era la possibilità di chiudere questa vicenda pagando 6-7 milioni, cioè la sorta capitale, perché il resto poi sono tutti interessi e sanzioni che avvocato Pisani, però mi dica Maradona, una cosa. No, la cosa importante, ha rifiutato questo pagamento, ha detto: io non voglio che altri paghino per me, perché non è giusto che si paghi e che la gente possa pensare che io sono un evasore. Ecco, senta che cosa. Allora, possiamo dire però, avvocato Pisani, che quel gesto, il famoso gesto dell'ombrello che ieri ha fatto durante la trasmissione, che tempo che fa, poteva essere evitato, no? Forse un po' grezzo, se non addirittura ricorda un po', sa perché poi è un paese questo, per certi versi, abbastanza sensibile alla questione, nel senso sia di chi si sottrae e di chi invece si indigna per questa cosa, perché il gesto dell'ombrello dà sempre l'idea del furbo, di quello che la mette in quel posto, diciamo volgarmente, no? Quindi questa cosa va letta proprio al contrario. Prima di tutto si trattava di una trasmissione satirica, una trasmissione da Fazio Lanzerotto, dove appunto c'era satira e c'era divertimento. Il gesto, per quanto possa essere apprezzabile o meno, era un gesto che Maradona faceva su se stesso, nel senso: questa volta mi sono salvato, non mi sono fatto pignorare, sono sfuggito io a un agguato, E infatti quando io ho chiesto, dico, ma come mai hai fatto questa cosa? Ma ha detto, ma è normale, in Argentina, in Italia è normale, è come fare, ecco, la pernacchia. Il Totò faceva la pernacchia. Sì, diciamo. Evidenziare. Totò, aveva, Totò era un comico, era un attore comico, di un certo livello. Maradona è un genio, Maradona è un artista. Sì, nel suo ormai ambito, senz'altro. È un poeta, è uno storico, è un uomo del mondo. Un politologo, ricorda, diciamo. Ecco, ho fatto questo gesto per fare un gesto di satira, senza voler offendere nessuno, non l'ho rivolto a Equitalia oppure l'ho rivolto. Ecco Pisani, però le faccio sentire che cosa ha detto, l'avrà saputo, insomma, il viceministro dell'economia Fassina oggi a Mix24. È un gesto da miserabile e credo che vada perseguito con grande determinazione. Stiamo parlando di quasi 40 milioni di euro e Maradona farebbe bene a imparare a rispettare le leggi. Questo il ministro il viceministro dell'economia. Poi il viceministro dell'economia non abbia mai letto le carte, non sa di cosa parla. Fa delle minacce ovviamente tramite mass media, ma prima di parlare lui ha il dovere e l'obbligo di capire, di convocare Maradona, che non è un Cusco del popolo ma è il miglior giocatore del mondo, forse la persona oggi più famosa al mondo. No, su questo cercare, per carità, anche se questo non esenta. Allora, aspetti un attimo Pisani, però c'è anche una dichiarazione del Presidente del Consiglio Letta di poco fa che ha detto: non mi è piaciuto per niente, chi paga le tasse va rispettato e sono gli italiani onesti, mentre in molti, come Maradona, dice, fanno il gesto dell'ombrello. Insomma, diciamo, questa cosa... No, la questione è diversa, se Letta pure forse, ecco, deve pensare a altre cose, Letta deve pensare a governare il paese, deve pensare a far rispettare i diritti dei cittadini. Maradona non ha detto evadete le tasse, Maradona non ha incitato la folla a non pagare le tasse, Maradona ha detto questa volta mi sono salvato da un agguato, perché la sera precedente era stato ancora una volta perseguitato all'aeroporto di Ciampino, davanti alla figlia, alla fidanzata, hanno tentato di toglierci l'orologio o la catenina d'oro che fortunatamente non aveva. E chi ha tentato di fare questo? Chi ha tentato gli ispettori di Equitalia lo hanno aspettato all'aeroporto mentre lo volevano spogliare dei suoi ori. Stava andando con la figlia e con la fidanzata e con degli amici alla partita del Napoli, quindi questo è l'agguato e la persecuzione che subisce Maradona. Ed è giusto che si sia sfogato senza mai offendere nessuno, senza incitare all'evasione fiscale, perché Maradona dice: io ho sempre pagato tutte le tasse che dovevo pagare. Così ha detto. Ma avvocato Pisani, senta, sa perché probabilmente, insomma, diciamo questa supposta evasione, chiamiamola così, perché se anche il presidente del Consiglio Letta ha dimostrato una certa attenzione, una certa indignazione su questo caso, perché deve sapere che fonti di Equitalia hanno fatto sapere oggi che con i soldi che Maradona, dichiarano loro, deve allo Stato, si potrebbero costruire servizi a favore di tutti, avviare anche un progetto di edilizia sociale, visto che sono quasi 40 milioni di euro, quindi evidentemente sono soldi che allo Stato italiano servirebbero non poco. Appunto, questa mi sembra la più grande forma di demagogia che abbia mai sentito, cioè Equitalia che dice che con i 40 milioni di Maradona, invece di pensare a tutti gli sprechi che fa la politica, ai veri evasori che abbiamo in Italia, alle banche, alle società di calcio che non hanno mai pagato le tasse e sono state agevolate, si dice che proprio con i 40 milioni di Maradona si possono costruire le scuole e i servizi sociali. Ma Maradona, io penso che li regali i soldi ai bambini per farli crescere bene, per insegnare i valori veri della vita, che non si è mai sottratto, ma che si vogliono costruire o ricostruire l'Italia con i soldi di Maradona, mi sembra che dopo il caso Berlusconi oggi inventiamo il caso Maradona, cioè tutti i problemi dell'Italia dipendono da Maradona. Cioè secondo lei anche il caso Berlusconi, scusi avvocato Pisani, secondo lei anche il caso Berlusconi è inventato quindi? No, io parlavo del caso Berlusconi nel senso che pare che il problema dell'Italia sia Berlusconi, fino a pochi giorni fa. Si parlava solo di Berlusconi con tutti i problemi che c'erano gli italiani. Oggi non si parla più di Berlusconi, si parla di Maradona. Il Presidente del Consiglio, anche lui, fa bene a interessarsi al caso Maradona, ma farebbe bene a convocare Maradona, le parti, a capire la questione, dopodiché una volta lette le carte, una volta capito, è giusto che lui decida se Maradona ha torto o ha ragione, ma parlare così sull'onda emotiva, sulla demagogia, sul fatto che si debbano pagare le tasse, veramente vuol dire farsi pubblicità sul nome di Maradona, perché io lo ripeto, io per Maradona, perché so quello che pensa Maradona, tutti dobbiamo pagare le tasse in maniera trasparente, regolare, e non dobbiamo violare le leggi, ma nessuno deve approfittare di Maradona. Guardi, leggo brevemente due messaggi sulla pagina di Effetto Notte su Facebook, che sono contrapposti. Uno, Marco scrive: la cosa sconcertante non è stato il comportamento di Maradona, ma coloro che gli hanno applaudito. Quindi rimprovera, insomma, il pubblico di aver mostrato consenso a questo gesto. E poi invece Francesco scrive: Maradona fa bene, non che Maradona sia un santo, ma Equitalia è il meccanismo innescato da governi di centrodestra e centrosinistra che rendono davvero iniqua anche la multa. Non è possibile gonfiare 2 milioni fino a farli diventare 39. Ora, al di là di queste posizioni, Angelo Pisani, a questo punto lei ha detto, ha anche chiesto a Letta che convochi Maradona e chiarisca la situazione, visto che sono 40 milioni che, se fosse vero, ha detto Equitalia, andrebbero a coprire tanti bisogni italiani, servizi e altre cose, edilizia sociale, eccetera. Quindi è importante lanciare questo appello. Se Letta o chi per lui vuole raccoglierlo, mi dice solo, Angelo Pisani, quando è che tornerà in Italia Maradona? Allora, se Letta o qualcuno per lui ha intenzione di capire e di valutare la questione in maniera trasparente, siamo disposti in ogni momento a venire in Italia, a presentarci, a sederci a un tavolo, e se siamo noi quelli che hanno torto, anche ad ammettere il torto. Però vorremmo che, se noi dimostriamo carte alla mano che non è mai esistita la violazione fiscale, qualcuno ammettesse che per tanti anni si è fatto un errore e si è strumentalizzato il nome di Diego Armando Maradona. Una volta tanto l'Italia farebbe una bella figura e la giustizia trionferebbe, perché io penso che quando lo Stato si confronta con il cittadino e si chiariscono degli equivoci, vince la società, vince la collettività, vince la legge. Vediamo di metterci un punto, sarebbe bello metterci un punto, possibilmente riconoscendo un errore, se così fosse. Se non fosse l'errore, invece, che questi 40 milioni prima o poi venissero pagati. Ci riaggiorniamo allora, avvocato Pisani, la ringrazio. Siamo a disposizione. Grazie avvocato, buona serata. C'è una pausa, abbiamo la pubblicità, c'è sempre la pagina Effetto Notte aperta per voi, e poi ritorniamo con i titoli, che vi ricordo tra poco, e naturalmente altri ospiti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Prima di passare al prossimo ospite per parlare di uno dei casi politici di questi giorni, vi ricordo i titoli dei fatti principali. Partendo dalla legge di stabilità, che è sotto assedio ora che inizia il suo percorso parlamentare, i sindacati che annunciano 4 ore di sciopero e Confindustria che dice è una legge che dimostra poco coraggio. Letta assicura che è migliorabile, che si migliorerà, ma la legge di stabilità dice stabilità. Ad Agrigento c'è stata la commemorazione delle vittime dei 2 naufragi di Lampedusa. Alfano, il vicepresidente del Consiglio, è stato contestato e quindi portato via dalla sicurezza. C'è allerta maltempo in Toscana, è stata particolarmente colpita in questi giorni. Fino a domani ci sono state frane e temporali. Ed è scoppiato il caso Maradona, ne abbiamo parlato poco fa. Non volevo offendere, dice lui, ma ed Equitalia rispondono: assurdo quel gesto, il gesto dell'ombrello. E dicevo, adesso parliamo di uno dei casi politici di questi giorni. Sapete che giorni fa, venerdì scorso, ne abbiamo parlato poi con Andrea Romano di Scelta Civica, qui a Effetto Notte, si è dimesso Mario Monti dal partito che ha creato, ha parlato di traditori, soprattutto in particolare di alcuni, per esempio come Mario Mauro, che era del PDL. Poi dice: mi ha chiesto, in ginocchio ha detto lui, di venire in Scelta Civica per avere, insomma, un posto in Parlamento. Poi adesso sembra che si riavvicini invece a Berlusconi. Ha parlato anche di Casini. Andrea Romano ha detto: non accettiamo, né io né Mario Monti, lezioni di politica e tantomeno di moralità da Casini. Insomma, lo scontro è abbastanza duro, ci sono state le dimissioni, Monti parla di molti traditori. In questi giorni si sta levando parecchi sassolini. Ne voglio parlare con Gianluca Sgueo, che saluto, buonasera. Buonasera. Che è giornalista, docente di lobbying e democrazia alla Bocconi e già spin doctor di Monti, cioè possiamo dire il curatore della comunicazione e dell'immagine di Monti durante la sua campagna elettorale, giusto? Beh, era un team piuttosto ampio di cui ho avuto il piacere di essere parte. Parte importante, diciamo. Beh, diciamo che io arrivai a Palazzo Chigi nella parte istituzionale della vita del Presidente, quindi per più di un anno e mezzo abbiamo fatto comunicazione istituzionale. Poi c'è stata questa propaggine da praticamente dicembre fino alle elezioni, nelle quali poiché appunto era il presidente candidato, ma anche il presidente del Consiglio, le due cose in qualche modo sono venute a incontrarsi e quindi ho avuto modo di vedere e dare un piccolo contributo anche a questa seconda parte. Più politica, appunto. Sgueo, ma se adesso dovesse dire, no, dà un pochino l'impressione Mario Monti in questi giorni, naturalmente si sentirà tradito, sentirà che le cose insomma prendono un verso che a lui non piace, ma non dà un po' l'impressione di essere molto rancoroso, quasi di avere addosso una frustrazione che forse gli fa dire anche delle cose oltre quello che... Che dovrebbe, che impressione ne ha lei visto che fa? No, guardi, io credo che ci sia ancora la tendenza a immaginare Mario Monti come il professore posato che quindi esprime sempre opinioni estremamente diplomatiche. Così faceva all'inizio quando era il presidente del Consiglio, poi era quando così. È salito in politica, come ha detto lui, mi pare che sia cambiato. Esatto. È colpa sua, Sgueo, è colpa sua che abbia cambiato così linea comunicativa? No, non è colpa mia, anzi, guardi, io credo che nel dibattito era uno di quelli che credeva che sarebbe stato meglio mantenere la cifra di linguaggio molto sobria che aveva avuto, perché secondo me, e così rispondo anche alla sua prima domanda, le persone restano spiazzate da un modo di parlare, di comunicare che è più del politico, no? Che quindi va anche un po' per eccessi, e questa cosa secondo me stride invece con un personaggio che di fatto ha un passato accademico, quindi è ancora percepito come una persona per cui una cosa detta da un altro personaggio politico, faccio un esempio qualsiasi, Brunetta, colpisce molto di più. Ecco. Dice quello che dice Monti, se lo dice un po' fuori dalle righe, colpisce di più che non quello che dice Brunetta? Sì, pur essendo Brunetta un professore universitario alla fine, quindi hanno un percorso comune. Però Brunetta forse ha mantenuto una certa coerenza nel suo modo di comunicare, nel suo modo di esprimersi. Esatto, Monti ha avuto si è sempre posto in questo modo. Io perlomeno da che ricordo Brunetta politico è un personaggio che è molto presente, anche con dichiarazioni forti, ma è proprio il suo stile, la sua cifra. E invece Monti no, ha avuto un cambiamento notevole e questa cosa secondo me spiazza le persone che lo ascoltano, quindi nel dibattito che ci fu se rendere Monti tra virgolette più umano, quindi più politico, o piuttosto lasciarlo come il sobrio professore, prevalse la prima opinione, ma evidentemente non ha pagato molto. No, sembra di no, perché diciamo si può effettivamente dire che Monti ha vissuto una specie di parabola, nel senso che quando era presidente del Consiglio forse non avrà assicurato l'equità come aveva garantito dall'inizio, non avrà dato slancio allo sviluppo al lavoro, però un pochino ha trattenuto l'Italia dalla caduta nel burrone, su questo bisogna riconoscerlo. Ha deluso su altre cose e ha deluso anche proprio per il fatto che ha giurato e spergiurato per tanto tempo che non sarebbe entrato in politica, poi per carità l'ha fatto, forse anche volendo creare uno dei tanti partitini centristi o neocentristi, forse non so se ce n'era bisogno. Però vede, le cose, io credo che allora ci sono due osservazioni da fare. La prima è che ovviamente io non sono nella testa di Mario Monti, però credo sinceramente in un suo percorso per cui lui a un certo punto ha ritenuto che potesse essere opportuno candidarsi, quindi quando diceva che non l'avrebbe fatto non ho ragione di ritenere che invece stava pensando il momento giusto per cui dirlo. L'altra cosa è che probabilmente il cambio così repentino è stato effettivamente quello che ha rotto completamente la percezione che c'era di lui, e quindi anche quello che di buono era stato fatto, poi si può discutere quanto buono, è venuto meno e quindi è stato poi travolto da un altro grande comunicatore che è invece Silvio Berlusconi, che inevitabilmente ha condotto la campagna elettorale con i temi e si è trascinato dietro persone che hanno meno esperienza di lui, e questa cosa è stata pagata. Ma per esempio prendersela con Aria Bignardi perché ha messo il cagnolino in braccio, forse non è tra le cose su cui può puntare maggiormente rispetto a chi l'ha tradito, chi l'ha danneggiato, no, questo forse dovrebbe più riflettere su se stesso. È stata un'espressione infelice, sono assolutamente d'accordo, d'altronde sì, sono d'accordo, è stata un'espressione infelice, sarebbe stato meglio evitare in generale. Ahimè, Secondo lei Gianluca Sgueo, appunto, è stato spin doctor, anche se dice aveva più spinto verso un tipo di comunicazione più sobria come quella sua iniziale quando era presidente del Consiglio, ma secondo lei è adesso un po' sul viale del tramonto Monti, o si può riprendere al di là del suo valore come persona, come economista, come istituzioni? Valore, diciamo, professionale è in dubbio, quindi assolutamente no, non credo che sia sul tramonto. Peraltro, lo dico così con un pizzico di ironia, si fa abbastanza presto in Italia a dimenticare anche dei piccoli scivoloni, il che, se visto da un punto di vista ottimista, è anche un'opportunità per chiunque, insomma, di persone che hanno rovinato apparentemente la propria carriera, ne abbiamo viste tante in questi anni, ma superato un certo periodo di tempo in realtà poi le abbiamo ritrovate, e magari erano persone con meno meriti rispetto al professor Monti, quindi no, io non credo che sia un tramonto. Certo, credo che Scelta Civica come forza politica probabilmente, qualora dovessimo andare a votare da qui ai prossimi mesi, dovrebbe necessariamente subire una sorta di riassestamento, ecco, in quel senso forse quella la vedrei più come un'idea che non ha funzionato molto bene, questa sorta di grande centro che poi non è stato grande affatto. Ecco. Questo lo sta dicendo a me e agli ascoltatrici e agli ascoltatori, lo dirà anche a Monti? O pensa che Monti ascolti? In questo momento in realtà la mia esperienza professionale è terminata, quindi io ho prestato la mia attività, poi non ho proseguito la mia attività di comunicatore con l'organismo politico Scelta Civica, quindi esprimo la mia opinione libera e quindi sì, lo dico a lei, ma lo potrei dire al professore senz'altro. Vabbè, se mai fa una telefonata allora, se fosse possibile. Grazie Gianluca Sgueo, buona continuazione. Grazie allora. Grazie, buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Affronteremo tra poco altri argomenti con ospiti in diretta, però vi ricordo, come di consuetudine a questo punto, i fatti principali attraverso i titoli. La legge di stabilità sempre in primo piano perché è sotto assedio adesso alla vigilia dell'iter parlamentare dei sindacati che annunciano 4 ore di sciopero, ma anche degli industriali, Confindustria che dice una legge che dimostra poco coraggio, e c'è Letta intanto che cerca di rassicurare e dice che insomma sarà migliorabile, non si potevano fare, non è una vera rivoluzione, ma già qualcosa si sta muovendo. Agrigento ha ricordato le vittime dei due naufragi di Lampedusa, quello del 3 ottobre e quello della settimana seguente, e il vicepresidente del Consiglio Alfano è stato contestato e quindi portato via dalla sicurezza. Il maltempo, di cui parleremo tra poco, che ha colpito in particolare la Toscana, e poi il caso Maradona, di cui abbiamo parlato con l'avvocato per l'appunto del PIB de Oro. Adesso parliamo per l'appunto del maltempo. Con Antonino Melara, che saluto e ringrazio, visto che è molto preso in queste ore. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei. È capo della Protezione Civile Regionale della Toscana. Insomma, la Toscana è stata colpita più anche della Liguria in questi giorni, sono stati allagamenti, frane, soprattutto tra Siena e Arezzo, molte famiglie sono state evacuate, ci sono stati danni alle aziende, non solo, c'è stato anche purtroppo un morto. L'allerta dura fino a domani alle 12 ancora? Sì, dura fino a domani alle 12, e diciamo che siamo stati colpiti abbastanza duramente. Noi questa notte, la notte passata, abbiamo avuto dei violenti nubifragi sul bacino del Serchio, in Lucchesia, quello dell'Ombrone e nel Pistoiese, e oggi pomeriggio nel Senese, la vostra viabilità parlava appunto delle debitanti a rotta a Buonconvento, lì abbiamo 40 famiglie evacuate, e poi abbiamo avuto anche piogge nel Pratese, nel Fiorentino la greve è uscita fuori dagli argini e ha procurato danni. Diciamo che non ci siamo fatti mancare nulla. Non ci siamo fatti mancare, infatti, purtroppo, Melara. Però purtroppo Non ci si fa mancare nulla, perché ci sono piogge, perturbazioni più abbondanti di un tempo, oppure è proprio che il nostro sistema idrogeologico sta andando proprio a ramengo, insomma, perché qualcuno si chiede, forse prima pioveva di meno, sta cambiando il clima, ma è anche responsabilità umana questa? Ma diciamo che abbiamo piovosità eccezionali. Oggi eravamo a Luc- Lucca per fare il primo incontro con gli amministratori e parlare dei danni, e ci ricordavano che le piogge del 96 erano state inferiori e avevano procurato più danni. Sono piogge eccezionali. Questo poi incidono anche su un territorio fragile, però teniamo conto che la piena del, faccio un esempio, la piena del Serchio, che è stata abbondante questa notte, era pari a quella del 2009, ma non ha procurato danni perché gli argini sono stati rifatti. La Regione Toscana sta investendo tantissimo in termini di risorse finanziarie per creare un territorio più resistente, però non ci dimentichiamo che non c'è anche un patto di stabilità che ci ferma. Enrico Rossi, mi perdoni Melara, Enrico Rossi, che è il presidente della Regione Toscana o governatore che dir si voglia, ha detto oggi gli investimenti per il riassetto idraulico e idrogeologico devono restare fuori dal patto di stabilità. L'ha detto e l'ha ribadito, anche ha usato uno slogan che non possiamo morire annegati per Maastricht. Cioè, il mio presidente sostiene che per quello che riguarda il servizio del territorio bisogna intervenire con risorse che devono stare fuori dal patto di stabilità, perché non possiamo permetterci più danni come quelli che stanno avvenendo, danni che poi richiedono risorse enormi per essere ripristinati. Quindi capisce bene qual è il ragionamento che tiene il mio presidente, e poi da questo sostiene da tanto che devono uscire dal patto di stabilità queste risorse. Antonino Melara, io la ringrazio e la saluto e la lascio lavorare, che poi domani mattina dovrà anche muoversi presto. Grazie, buon lavoro. Adesso saluto Mauro Meazza, che è venuto qui a trovarmi direttamente in diretta del Sole 24 Ore, caporedattore centrale. Mauro. Buonasera Roberto. Oltre, prima di raccontarci cosa sarà dominante sulla pagina domani della prima pagina del Sole 24 Ore, hai sentito di questo assalto a una iniziativa del Ministero del Lavoro, Click Lavoro mi pare che si chiami, no? Sono arrivate per i giovani, quelli presi in considerazione erano i famosi NET, cioè quelli che né lavorano né studiano, ci sono pronti degli stage da 500 euro al mese, in 19.000 si sono iscritti, per dire che insomma non è vero che sono tutti bamboccioni, non hanno voglia di fare, insomma 19.000 non sono pochi per 500 euro al mese. Forse questo termine dei bamboccioni, così come quello degli schizzinosi, per quanto detto all'inglese da un altro ministro in tempi più recenti, sì esatto. Forse sono termini che rendono un po' male la questione, perché ad esempio in questo caso appunto bando per 6 mesi di stage a 500 euro al mese, quindi non stiamo parlando di una retribuzione vera, 6 mesi a 500 euro ogni mese, 19.000 domande, ognuno presenta in media più di 10 candidature, in totale 210.000 candidature. Stiamo parlando poi solo di regioni cosiddette nell'obiettivo, quindi sono poi le regioni Campania, dove la disoccupazione Calabria, giovanile è più elevata, purtroppo, anche se come sai la media nazionale è da emergenza assoluta, perché siamo oltre il 40%. Questo tipo di disponibilità mostra che in qualche modo il bisogno anche di lavorare c'è molto forte. Poi è chiaro che e anche l'adattabilità è chiaro che si tratta anche di far combinare un po' il proprio percorso formativo con la richiesta. Noi oggi, stamattina, ci siamo presentati in edicola con una guida che è cercare lavoro indirizzata proprio ai giovani. Si segnalava come tra le professioni più richieste c'è ad esempio quella del commesso, poi ci sono le professioni invece difficili da reperire, e al primo posto ci sono gli abituali ingegneri dell'energia, gli ingegneri meccanici. E quelli sono sempre richiesti. Chi l'ha persa oggi la ritrova, sta guida del lavoro? Può appoggiarsi innanzitutto al nostro sito, perché può trovare al nostro indirizzo www.ilsole24.com/sbarretta, insomma, cercare lavoro, ritrova dei materiali connessi a questa guida. Poi cerchiamo di metterla ancora a disposizione, ha avuto molto successo, per fortuna, e segnaliamo anche il fatto che forse è necessario guardare all'estero, guardare alla Germania, guardare al Regno Unito, guardare alla Francia, insomma, disponibilità. Senti, c'è un'ultima cosa che ti volevo dire, 14.000 dei presentanti domanda sono donne, 5.000 uomini, c'è una netta sproporzione a favore delle donne. Forse perché gli uomini si accontentano meno di 5, c'è la solita storia un po' anche culturale. Senti Mauro, in questi 40 secondi che ci restano, due o tre argomenti del Sole di domani? Allora, casa, problema della casa, pagheremo di più, pagheremo di meno. Ecco. Abbiamo rifatto dei conti. Saperlo. Abbiamo rifatto dei conti. Allora, secondo il nostro conto, naturalmente la legge di stabilità, come sappiamo, è un disegno, va confermato, eccetera. La TASI, che è una parte della nuova tassa che si pagherà, la tassa sui servizi indivisibili, porterà sostanzialmente un aumento. Saranno invece favoriti coloro che hanno rendite alte e non hanno figli. Bene, domani se volete sapere qualcosa di più, pagheremo meno, pagheremo di più. Il Sole 24 Ore, grazie a Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole. Noi ci sentiamo tra poco. Ciao Mauro. Grazie a voi.